Mediterraneo Autoproduzioni 2004. Io non voglio prendere posizione, non alzare la voce, tu hai sempre ragione, ma prova a pensare per un attimo a questa situazione. Immaginati straniero in un'altra nazione, senza casa, amici o riferimenti, senza un posto per dormire, niente da mettere fra i denti. Immaginati nei sottopassaggi o la stazione d'inverno, riesci per un attimo ad immaginare questo inferno? Cosa faresti per stare un po' meglio, per trovare un po' di calore al risveglio e poi non trovare mai sorrisi sui visi? Porte chiuse in faccia, ma niente di concreto, zero paradisi. C'è gente di serie B che la società ha già dimenticato. C'è gente di serie B che la società ha già schedato. C'è gente di serie B e noi ignoriamo. C'è gente di serie B, non ricordiamo più da dove veniamo. Scappare dalla miseria e dalla povertà e ritrovarsi in una grande città, in Italia, dove tutti corrono, nessuno può aspettare e ascoltare. Tutti piangono ma nessuno riesce ad aiutare, ad accettare. Ogni volta che vedo una ragazza che si vende su un viale, un bambino con la spatola ad un incrocio con un'aria triste, sto male. Ogni volta che muore un barbone per il freddo a Torino, io mi vergogno perché non ho potuto aiutare chi avevo vicino. Penso come sarebbe la mia vita se come coperta avessi un giornale, o a vendere fazzoletti e accendini a chi passeggia nel viale. E con il cuore la mia terra tanto lontana, penso a cosa prova chi si sente dire puttana. C'è gente di serie B che la società ha già dimenticato. C'è gente di serie B che la società ha già schedato. C'è gente di serie B e anche noi ignoriamo. C'è gente di serie B, non ricordiamo più da dove veniamo. Penso ai viaggi in container soffocanti e su barconi fatiscenti stracolmi solo per tirare avanti. Penso a chi deride, spreca, disprezza. Sto soffrendo, non regalo saggezza. Posti di lavoro sottopagati, bambine che appena nascono sono già sfruttati. Lavorano per le multinazionali del potere, trattati come oggetti o macchine, sicurezze non ne possono avere. Siamo in Europa, non ci sono differenze. Com'è allora che io sono le tue dipendenze? Com'è che tu hai 80 anni e fai ancora il presidente e muore prima dei 20 anni tanta gente? Com'è che tu hai l'auto blu e la scorta e c'è chi ha la casa senza manco una porta? La strada affascina ma uccide spesso, non si può uscire di sera adesso. E le vite si mescolano, ma tu sei sicuro? Hai comprato una bella pistola per affrontare il futuro. C'è gente di serie B che la società ha già dimenticato. C'è gente di serie B, la società ha già schedato. C'è gente di serie B e anche noi ignoriamo. C'è gente di serie B, non ricordiamo più da dove veniamo. C'è gente di serie B che la società ha già dimenticato. C'è gente di serie B che la società ha già schedato. C'è gente di serie B e anche noi ignoriamo. C'è gente di serie B, non ricordiamo più da dove veniamo.